La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. La mia famiglia dice si era già un po' abituata appunto con queste idee di andare in Canada a fare il taglialegna ad avere qualche dubbio sulle mie capacità mentali e quindi non rimase sorpresissima, anche se rimase sicuramente preoccupata, perché la mia famiglia, mio padre è un ingegnere, mia madre è una signora che stava aveva tirato su due figli, di cui uno laureato. E lei era il primo o il secondo figlio? Io il secondo, e quindi l'idea che uno dei figli non cercasse un lavoro normale, ma si buttasse in un'attività assolutamente senza nessuna, come vedevano, nessuna prospettiva, era una cosa che sicuramente li ha preoccupati. Francesco Bonami è uno dei più noti critici d'arte contemporanea e anche uno tra i più talentuosi curatori d'arte. A New York è adorato come una star del cinema. Prima di diventare lo scopritore di grandi talenti, Bonami è stato un ragazzino inquieto, alla ricerca di se stesso e della sua strada. Oggi, a 58 anni, dice di doverla ancora trovare veramente quella strada, ma ovviamente nessuno gli crede. There's nothing much to take. Io sono ormai tanto infante, non sono più, perché ho 58 anni, quindi ormai sono un vecchio infante libero. Perché no, credo che non, di avere portato un linguaggio nel mondo dell'arte che di solito abituato a equilibri, strategie, diplomazia, nessuno si aspettava che arrivasse. Allora forse dico un po' quello che penso, e quello che penso a volte non è così simpatico come io magari mi immagino. Lei è riuscito ad essere molto diretto in situazioni in cui veramente non era il caso di esserlo? Cioè, ci può fare qualche esempio? Si ricorda qualche momento? Ma uno degli ultimi momenti, sono stato molto diretto con il sindaco di Venezia riguardo alla scultura quella scultura dell'artista americano, del ragazzo con la rana in cima a punta della dogana, che è stata tolta per delle regole assurde e per motivi elettorali. E quindi ho detto questo e non credo di essere stato apprezzato molto dai veneziani. Senta, lei ha una storia bellissima, perché a leggere, diciamo, la sua biografia ci si accorge che ha avuto tantissimi inizi e diversi approdi. E allora, la prima cosa che le volevo chiedere è se poteva raccontarci come andò il viaggio in Canada a 18 anni, cioè perché era partito per il Canada. Beh, ero partito per il Canada perché avevo finito il liceo e un amico di mia madre faceva l'illustratore e il pittore, e fu invitato a fare una piccola mostra in una galleria di Toronto, e disse a mia madre se voleva che io viaggiassi insieme a lui e a sua moglie, perché io facevo dei disegnini sulla carta, non ero ancora un artista e mi divertivo a fare quelle cose lì. E allora viaggiai insieme a loro a Toronto. Però io, quando viaggiai, avevo questa mal riposta ambizione di diventare taglialegna, e questo appunto ambizione che mi fu soppressa subito quando arrivai in Canada, perché mi resi conto che non era possibile farlo. Perché? Perché non sapevo dove si faceva, non sapevo dove si trovava, non sapevo dove era l'ufficio di collocazione per taglialegne, non avevo il minimo idea addirittura. Sono stato a Toronto e lì poi sono rimasto un po', sono stato anche quasi, come si chiama, quella setta Scientology. Sì. ho rischiato quasi di essere diventare un adepto di Scientology, perché cercando lavoro entrai in uno di questi uffici loro senza saperlo e fui quasi convinto a unirmi a loro. E poi cosa successe? Tornò in Italia, perché a quel punto, finita l'avventura canadese, decise di rientrare? Dopo finita l'avventura canadese decisi di rientrare, mi iscrissi all'Accademia di Belle Arti in scenografia e da lì iniziò, diciamo, la mia avventura nel mondo delle arti. Volta di Bonami ha dunque inizio con una delusione. Voleva fare il taglialegna in Canada e finisce nel negozio di uno scultore di legno a Toronto. Un uomo che Bonami definirà terribile, ma che gli farà venir voglia, una volta rientrato in Italia, di iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove studierà scenografia. La prima volta a cura di Cristina Carpinelli. Questa è la storia di un ragazzo cresciuto di traverso, convinto d'essere un po' strano e divenuto nel tempo uno dei più grandi esperti d'arte contemporanea al mondo. Stiamo parlando di Francesco Bonami, fiorentino, figlio di una famiglia alto borghese, una mamma, un padre, un fratello maggiore. No, artista internazionale. Ho fatto una mostra a New York, due mostre a New York. Non potrei definirmi un artista internazionale. Il massimo del mio successo l'avevo raggiunto a Milano. E poi dopo, come curatore, invece ho viaggiato molto e sono andato in giro parecchio. Non so se me la gioco tutta, è una partita che ancora non è del tutto conclusa e che mi continuo a giocare. Tento di giocarla ancora finché si può. Però quello che volevo capire è, cioè, come suggerimento, visto che lei ha scritto un libro, Mamma voglio fare l'artista, che è di fatto rivolto ai ragazzi, ai giovani artisti, se tra i consigli o gli incoraggiamenti che si possono dare a un giovane c'è quello proprio di andare, partire? Beh, sicuramente di partire da qualche parte, non necessariamente in senso geografico, non necessariamente al di là dell'oceano, ma mantenere una mobilità mentale, tentare di vedere oltre i propri confini che ci vengono dati dal destino, che può essere la famiglia o il luogo dove siamo nati, e andare un po' a capire, cioè, come funziona il resto della realtà. Senta, le volevo chiedere altre cose. Per esempio, io ho letto che in un'intervista lei ha detto di non aver mai studiato in vita sua. Cioè, in che senso? Cosa significa? Ho sempre avuto problemi a studiare. Ah, è diverso allora. Ho sempre avuto problemi a studiare, anche quando avevo degli esami, mentre i miei compagni riuscivano a fare le nottate, io a un certo punto interrompevo e non studiavo più. E questo si è mai spiegato il perché? Cioè, ha cercato di darsi una ragione? Secondo me a quei tempi non si diagnosticavano. Oggi quando un bambino non studia, è disattento, è distratto, viene subito inquadrato in una patologia clinica, e a volte addirittura in America gli danno addirittura delle medicine. Magari era un bambino con quello che si chiama, non so come si dice in italiano, attention deficit disorder, ADD. Sì. Ecco. O probabilmente una persona con tanta fantasia, cioè ci potrebbe essere anche il risvolto, diciamo, più bello, no? Più romantico. Forse sì, forse c'è anche un po' di fantasia, però quando uno così non è difficile tracciare un confine fra la distrazione e la fantasia. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going. Francesco Bonami è newyorkese a tutti gli effetti. Negli anni 90 si trasferisce definitivamente in America, la terra che meglio di tutte lo accoglie. È sposato con una donna americana e ogni tanto torna, anche solo con la fantasia, in Italia, e nei suoi ricordi fiorentini lui è sempre un ragazzino con un cappello dalla piuma rossa in testa. Ma l'idea era quella di... mi è venuto in mente appunto pensando a quando io decisi di dire a mia madre che facevo l'artista, e allora mi è venuto in mente che forse ancora oggi è difficile per un giovane che decide di intraprendere questa difficile, complessa e anche molto poco chiara attività, dal momento in cui lo dice ai genitori, cosa deve fare poi per poter continuare o provare a essere un artista. E lei, quando ha iniziato, proprio si ricorda le difficoltà del riuscire, cioè la sua famiglia d'origine com'era rispetto al fatto che lei volesse fare l'artista? Ma la mia famiglia d'origine si era già un po' abituata appunto con queste idee di andare in Canada a fare il taglialegna, ad avere qualche dubbio sulle mie capacità mentali e quindi non rimase sorpresissima, anche se rimase sicuramente preoccupata, perché la mia famiglia, mio padre è un ingegnere, mia madre è una signora che stava aveva tirato su due figli, di cui uno laureato. E lei era il primo o il secondo figlio? Io il secondo, e quindi l'idea che uno dei figli non cercasse un lavoro normale, ma si buttasse in un'attività assolutamente senza nessuna, come vedevano, nessuna prospettiva, era una cosa che sicuramente li ha preoccupati. Senta, ma suo fratello invece dice laureato, quindi suo fratello è molto più quadrato, cioè molto più lineare? Beh, abbastanza, ma anche se lui, anche lui non è del tutto completamente regolare, ma insomma sì, ormai stiamo parlando di due signori, uno di 58 e l'altro di 62 anni, quindi 61. Quindi, insomma, siamo per... Senta, l'ultima domanda che le faccio è proprio una domanda che faccio anche sempre ai protagonisti di questa trasmissione, che sono le persone che intervisto. Lei che ricordo ha di se stesso da bambino? Di se stesso da bambino? Che ricordo ha di me stesso da bambino? Beh, io mi... un ricordo visivo, la prima immagine che ho di me è di un bambino un po' paffutello con un cappellino da alpino rosso, che poi era uno dei personaggi che io infilavo dentro i miei quadri quando ero un artista, e quindi un bambino così. Mia madre mi ha sempre detto che era un bambino difficile, non so in che forma o in che misura questo venisse giudicato. Però l'idea di un bambino così come l'ho detto, con un cappellino rosso, un po' difficile forse. La prima volta termina qui. Come sempre, grazie per averci seguito. Potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Se volete potete riascoltarci in podcast o diventare amici su Facebook o commentare il blog. Gli indirizzi li trovate entrando sul sito di Radio 24 e poi cercando la pagina dedicata alla trasmissione La Prima Volta. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli, a domenica prossima. To see the world, there's such a lot of world to to see. We're after that same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend.